Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati a tutti ancora da Mirko Cavallini Studio, da Didaici Regia, il nostro appuntamento consueto di ogni settimana con il mondo della scuola. Oggi una puntata un po' particolare, diversa dal solito, non abbiamo ospiti in studio, ma tratteremo comunque dell'argomento scuola, partendo da alcuni dati dell'OCSE che non sono molto positivi per i nostri per quanto riguarda i nostri studenti. Parleremo dei cortei in questi giorni in tutta Italia, a Padova anche è previsto un concentramento importante. Poi torneremo sui dati pubblicati in questi giorni dall'Atlante dell'infanzia a rischio presentato da Save the Children, e molti di questi dati riguardano proprio il settore della scuola e della formazione, dell'istruzione. Per chiudere celebreremo un importante anniversario, i 200 anni del liceo Marco Polo di Venezia. Andiamo ad iniziare dunque intanto entrando nella cronaca stretta, poi lo diventerà anche nelle prossime ore probabilmente, sperando che vada ovviamente come siamo fiduciosi, tutto nella regola, nella norma della civiltà e delle manifestazioni di piazza tra oggi mercoledì e domani giovedì. Gli studenti medi universitari tornano in piazza in occasione dello sciopero indetto dalla FIOM in tutta Italia. Le manifestazioni sono a livello regionale, per quanto riguarda il Veneto l'appuntamento è a Padova, ma poi ci sono anche Torino, Genova, Gorizia, Bologna, Pisa, Siena, Roma, Napoli, Bari, Cosenza e Catania. Manifestazioni già anticipate invece al mercoledì in Lombardia, Marche e Toscana. A Roma addirittura ci saranno anche quattro cortei in piazza Bocca della Verità, a piazzale Aldo Moro, a piazza Repubblica e a piazzale Ostiense. Il percorso potrebbe anche essere deciso nel corso della mattinata perché evidentemente soprattutto nella capitale ci sono problemi maggiori, poi manifestazioni praticamente ce ne sono ogni giorno di tutti i tipi e sappiamo che la questione appunto è piuttosto accesa, i temi sono molto caldi sul tappeto, noi contiamo nell'intelligenza dei partecipanti, su quello affidiamo appunto le speranze che queste manifestazioni siano e si svolgano nell'ambito della civiltà, della correttezza, del rispetto, senza nessun tipo di violenza. Parliamo ora di un altro tema, che è quello dei dati, una ricerca dell'OCSE. In Italia solo il 40,9% dei quindicenni frequenta la scuola superiore e pensa di completare con successo un percorso universitario. In Corea la percentuale è del doppio, 80,9%. Anche la Serbia fa meglio dell'Italia, 55,1%. I dati, come detto, sono del nuovo rapporto OCSE, che fa il punto sulle aspettative dei ragazzi dopo il diploma. L'OCSE ha intervistato i quindicenni di 21 dei paesi che partecipano al programma PISA, il programma che misura le capacità matematiche di comprensione del testo in questa fascia d'età. In molti paesi queste aspettative si sono abbassate di livello e c'è una notevole dispersione di talenti, anche questo è un peccato. Anche studenti con performance brillanti non trovano appetibile o interessante lo studio universitario. Parliamo di quindicenni, quindi con almeno 4 anni di distanza dal percorso universitario, però certe indicazioni, certe tendenze nascono appunto già nell'adolescenza. In Italia meno di uno studente su 4, come detto 40,9%, pensa di completare un percorso universitario. Picchi più bassi al nord: in Val d'Aosta solo il 35,1% si aspetta di conseguire una laurea, contro ad esempio il 48,6% del Lazio. Rispetto al 2003, ed era appunto appunto del 2003, la precedente rilevazione dell'OCSE, la percentuale di ragazzi italiani che pensano di laurearsi è crollata dell'11,2%. E ancora una volta sono le ragazze, le femmine ad essere migliori dei maschi, perché la percentuale tra le quindicenni che pensa di laurearsi è maggiore rispetto ai ragazzi. Poi la media appunto fa 40,9, ma le ragazze sono al 48,3%, quindi quasi metà. I ragazzi invece uno su tre, il 33,7%. Molti studenti, anche che vanno anche bene a scuola, però non si aspettano di andare all'università e rappresentano quindi dei talenti potenzialmente persi. Peccato davvero, quindi vuol dire che a lungo termine c'è qualcosa che non funziona, evidentemente nella nostra programmazione, nella programmazione della scuola, dell'educazione per quanto riguarda i quindicenni. E non è detto che per recuperare questa prospettiva, se questi a 15 anni hanno già questa idea, vuol dire che il germe evidentemente è nato molto prima. Questa dunque è una panoramica, una prima panoramica. Invece tra poco torniamo sui dati, nemmeno questi proprio confortanti, anzi proprio brutti, dell'Atlante dell'infanzia a rischio presentato in questi giorni da Save the Children, e molti dati che riguardano il settore dell'istruzione sono davvero sconfortanti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Leva la piano amore mio, cade il ghiaccio, lascia gli alberi a tremare. Sfila la lama senza fretta, ora c'è tempo amore mio. Tutto è quieto e non serve un giorno in più. E non c'è più niente al mondo da aspettare. Gettami l'acqua fresca in viso, lasciami un soffio tra i capelli, se è davvero solo un sogno tornerò. Sfila la lama dalle carni, lasciami andare amore mio, basta un salto per riprendere a volare. Sopra palazzi e ciminiere, prati bagnati e ferrovie, quanti posti non ho visto mai da qui. E non c'è più niente al mondo da cercare. Lasciami solo un po' di fiato che mi riscalderà le mani, se è davvero solo un sogno tornerò. Se non c'è più niente al mondo da cambiare, cercami, stringiti vicino prima che perda il mio calore. Se davvero solo un sogno tornerò, cercami e vieni più vicino, ancora un po' del tuo calore. Se soltanto è solo un sogno tornerò. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Dal mondo della scuola, Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia. Oggi una puntata particolare, senza ospiti in studio, ma con temi che crediamo importanti e interessanti per quanto riguarda il settore educativo e scolastico. In questi giorni è stato presentato dall'associazione Save the Children il nuovo Atlante dell'infanzia a rischio. Ebbene, agganciandoci a quanto dicevamo prima sui dati dell'OCSE, sembra una linea di tendenza forse anche peggiore per quanto riguarda l'Italia. Nel nostro paese ci sono 800.000 giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno interrotto gli studi fermandosi alla terza media. Sono il 18% del totale, quasi uno su cinque dunque si è fermato alla terza media. In Sicilia e in Sardegna la dispersione scolastica supera addirittura di 15 punti percentuali l'obiettivo europeo, che è del 10%, cioè non si iscrive alla scuola superiore uno studente su 4. Oltre ai dispersi nella scuola esiste disconnessione culturale. Il 5% di bambini e ragazzi, 314.000 individui, nell'ultimo anno non sono mai andati al cinema, non hanno mai aperto un libro, non hanno mai usato un computer, navigato su internet o fatto uno sport. Davvero sono troppi evidentemente. Un giovane sotto i 25 anni, ogni 3, un terzo degli under 25, è spesso laureato e magari con una laurea triennale, e però è disoccupato. Inoltre il 34% dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni si dichiara scoraggiato, cioè rinuncia addirittura a cercare un lavoro, una percentuale che è 4 volte superiore alla media europea. Solo al sud più di 1.600.000 ragazzi non è iscritto né a scuola né all'università né lavora. I tassi sono davvero preoccupanti. E poi c'è anche un'altra questione: il debito pubblico che grava su tutti, su tutta la nostra nazione, su tutta la Repubblica. Dividendolo per ciascun abitante, neonati compresi, fa 3 milioni e mezzo di euro a testa. La povertà aumenta e di conseguenza aumenta anche la povertà culturale. I dati che dicevamo prima. In Italia sono nati 560.000 bambini quest'anno, a ciascuno di loro è già stata lasciata in eredità un'ipoteca da 3 milioni e mezzo, il più alto a livello nazionale. E poi ci sono le minacce al presente e al futuro dell'infanzia, la mafia e l'inquinamento. 700.000 bambini vivono in uno dei comuni sciolti per mafia almeno una volta negli ultimi 20 anni. Il 15% vive in territori altamente inquinati, e nel nostro Veneto c'è la zona di Porto Marghera, che è molto meno utilizzata rispetto agli anni passati, ma è tuttora molto inquinata e deve essere bonificata. Un minorenne su 5 nel 2030 sarà straniero o di origine straniera. Le nascite generalmente diminuiranno. L'incidenza del voto dei giovanissimi rispetto al resto dell'elettorato, cioè la fascia 18-21 anni, i primi 3 anni di diritto al voto, sarà bassa, sarà solo del 4%. Nel 2050 infine la fascia di popolazione da 83-85 anni eguaglierà quella da 0 a 2 anni, dati davvero sconfortanti. Per quanto riguarda il Veneto, i minorenni, che cosa fa il Veneto rispetto alle altre regioni? In Veneto la spesa pro capite da parte dei comuni per famiglie e minori è di circa 100 euro, in Emilia Romagna quasi il triplo, 282. Asili nido. In Veneto l'offerta copre il 12,5% dei bambini da 0 a 2 anni. In Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Umbria si va dal 27 al 29%, più del doppio. In crescita anche, come detto, la disaffezione allo studio anche fra i ragazzi che magari non hanno particolari carenze affettive, pensiamo alla separazione dei genitori o problemi economici. Il titolo di studio si tende a giudicarlo inutile. In Veneto la dispersione scolastica è del 16,8%, con quasi 17 giovani su 100 nella fascia 18-24 anni che sono fermi alla terza media. E per quanto riguarda i cosiddetti disconnessi culturali, dato che vi davo in apertura per quanto riguarda l'Italia, in Veneto un giovane su 3 non ha mai utilizzato il computer, letto un libro o connesso ad internet negli ultimi 12 mesi. E poi la questione degli edifici scolastici, che sono importanti perché accolgono appunto i nostri figli, i nostri nipoti nelle scuole. Il 95,5%, quindi praticamente tutti gli edifici scolastici in Veneto, non sono conformi alle norme antisismiche. Davvero il quadro è piuttosto sconfortante. Save the Children dunque ha pubblicato questo atlante dell'infanzia a rischio, e qui non c'è solo un rischio evidentemente, c'è anche una realtà purtroppo, che le cose vadano a peggiorare. Non leggere un libro si può anche capire perché si usa di più la tecnologia e magari il libro di carta non lo si prende in mano, però le stesse persone, appunto gli stessi giovani interpellati, non hanno nemmeno utilizzato un computer, cosa che in questo terzo millennio è assolutamente impensabile per la vita ordinaria, per la vita professionale, ma anche per la vita scolastica. Non si sono connessi ad internet, quindi sembrano non avere più nessun tipo di interesse. Al mondo degli adulti evidentemente aspetta una scossa, innanzitutto a se stessi, un esame di coscienza, per poi rilanciare e ringiovanire anche questi giovani che probabilmente sembrano essere un po' più vecchi addirittura degli anziani, di quelli che sono anziani di età. L'ultima pagina tra poco per questa puntata dal mondo della scuola, per celebrare un anniversario importante, cioè i 200 anni del liceo Marco Polo di Venezia. Dal mondo della scuola. Ultima pagina per oggi, per questa puntata dal mondo della scuola, l'undicesima del nostro palinsesto, della nostra programmazione. Ricordiamo che le ritrovate tutte nell'archivio, nella sezione podcast del sito bluradioveneto.it. Ultima pagina, dicevamo, dedicata ad un anniversario, i 200 anni del liceo Marco Polo di Venezia, un liceo importante, più vecchio dell'Italia, dello Stato italiano, molto più vecchio, che ha avuto negli ultimi anni nomi illustri tra gli alunni. Citiamo gli ultimi due sindaci, quello attuale Giorgio Orsoni e quello precedente Massimo Cacciari, ma sono stati davvero tantissimi che nel corso di questi due secoli hanno potuto ricevere istruzione aggiornata ai tempi, anche tra le aule importanti e autorevoli di questo liceo. Sentiamo l'assessore provinciale all'istruzione per quanto riguarda Venezia, Claudio Tessari. Beh, prima di tutto auguri a questo istituto, che 200 anni non sono pochi, però credo che il momento serva anche per una riflessione sugli studi classici, una riflessione più in generale sulla scuola e la necessità che gli studi classici, quindi i licei classici, abbiano una specialità rispetto alle altre scuole, perché oggi il liceo è classico in maniera particolare, è una scuola in sofferenza, e quindi che sia equiparata agli altri istituti è secondo me un errore. Dovrebbe avere una specialità in maniera tale che l'autonomia possa essere garantita per questo tipo di scuola. La giornata di celebrazione è stata sabato scorso nella sala consiliare della provincia di Venezia a Ca Corner. C'erano autorità, ex alunni, docenti, è intervenuta Claudia Salmini, direttore dell'archivio di Stato di Belluno, Alberto Camerotto, presidente dell'Associazione Italiana di Cultura Classica di Venezia, una scuola come detto molto prestigiosa, con una storia importante, un nome importante. Sentiamo l'attuale dirigente scolastico, o preside come si diceva una volta, Patrizio Marangon. Sono 200 anni che il liceo classico Marco Polo esiste, prima come ginnasio e poi come liceo, e che adempie egregiamente al suo dovere di istruzione con gli alunni veneziani. Oggi cade proprio l'anniversario dell'istituzione in epoca napoleonica, ovviamente. Però la denominazione Marco Polo è del 1867, dopo l'unità d'Italia. La nostra intenzione sarebbe di far durare queste celebrazioni che iniziano oggi appunto per 5 anni e ricordare varie tappe, ma anche e soprattutto mostrare i lavori che i nostri studenti faranno al proposito. I problemi che attanagliano la scuola veneziana sono i problemi di Venezia, che gli edifici sono edifici storici bellissimi, è un piacere fare scuola dentro, ma non sono nati come edifici scolastici. E ovviamente adesso purtroppo anche l'Istituto Marco Polo sarà oggetto di ridimensionamento come altre scuole veneziane. Però ovviamente la scuola si basa sulla tradizione, ma anche sul cambiamento, e quindi noi affronteremo questo cambiamento. Per chiudere questa celebrazione, una voce di una docente, insegna latino e greco, quindi al liceo classico materie più che fondamentali, la professoressa Michela Andreani. I ragazzi sono secondo me quelli di sempre, e la nostra scuola si caratterizza, e lo dicono anche i questionari di clima interno, proprio per un clima particolarmente piacevole, di benessere a scuola, e io lo ritrovo, è un benessere che ritrovo nei loro occhi e nell'interesse comunque costante verso quello che fanno insieme a noi insegnanti. In bocca al lupo allora per altri 200 anni, così sperando che poi ci siano soldi e strutture. Dicevamo prima che molte delle scuole del Veneto, quasi tutte, non sono a norma per quanto riguarda la sicurezza sismica. Certamente a Venezia ci sono strutture bellissime, come diceva il preside, però molto delicate e molto fragili. Con questo andiamo a chiudere l'appuntamento di questa settimana con il mondo della scuola, che torna puntualmente ovviamente questa settimana non di sabato, perché sabato si festeggia l'Immacolata, ma la prossima settimana con altre voci da questo affascinante mondo, certo molto impegnativo, ma anche ricco di novità e di potenzialità. Ne parleremo ancora in questo spazio. Ringraziamo Eddie Dice la parte tecnica, voi per l'ascolto, da Mirko Cavallini. Buon proseguimento con Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.